Il punto di Stefano Folli. Che la legge di stabilità debba passare attraverso un attento esame non c'è dubbio. Quello dell'Unione Europea fa parte della storia recente, ma quello del Quirinale è tutto nella tradizione costituzionale. E per quanto Napolitano abbia mostrato in più occasioni di voler sostenere lo sforzo del governo, questo non significa che la legge cruciale per il bilancio dello Stato sia esentata dal passare come ogni anno sotto la lente della verifica. Poi, lo sappiamo, spetta al governo e solo al governo la responsabilità politica delle sue azioni, così come la credibilità della manovra e le conseguenze che ne derivano sul piano sociale. C'è solo da augurarsi che Renzi non stia mettendo troppa carne al fuoco e che non prevalga prima o poi la tentazione di sfuggire alle difficoltà con una fuga nelle elezioni anticipate, fidando sul fatto che la popolarità del Premier continua a essere alle stelle, grazie anche e soprattutto all'assoluta assenza di avversari in Parlamento e nello stesso Partito Democratico. Votare in democrazia è sempre salutare, ma non avrebbe senso ritrovarsi il giorno dopo con le stesse contraddizioni.